E dunque, che si fa a Natale? Non si sa. Nel senso che il ministro Speranza vuol mantenere le restrizioni già previste, mentre Conte sarebbe pronto a cedere sugli spostamenti tra comuni, quindi cambiando radicalmente opinione rispetto ad appena un paio di giorni fa. E dunque, che succede nella maggioranza? Che Conte sarebbe pronto a cedere sulla cosiddetta task force, aprendo ad un dialogo maggiore con i renziani e non solo con loro, per quanto le tensioni permangano. Nel frattempo si è raggiunto un accordo con Polonia e Ungheria sul bilancio e sul recovery fund, con corpose concessioni ai due paesi sul tema dello Stato di diritto. Dovremmo esserci, insomma. Giornata di ieri segnata anche dalla conclusione delle indagini sull'assassinio di Giulio Regeni, i racconti delle torture, le accuse ai quattro uomini dei servizi egiziani riaprono il capitolo di una richiesta di giustizia che interroga ovviamente anche il governo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:33 minuti e 10 secondi di venerdì 11 dicembre. E a questa data non sappiamo ancora che cosa succederà esattamente nei giorni di Natale, perché eravamo convinti fino a ieri, E lo avevamo sentito anche dal vice ministro all'interno, Matteo Mauri, che è stato nostro ospite alle 8:45, che eravamo convinti che non ci sarebbero stati, il governo non avrebbe mollato, Tra i comuni non ci si sposta, Le regole non cambiano, a meno che non cambi radicalmente la curva e scompaiano i contagi, le regole che abbiamo stabilito sono quelle e quelle devono rimanere, ma non per una questione formale, guardi, ma per una questione sostanziale. Perché io capisco che chi abita in comuni più piccoli guardi il giardino del vicino che è sempre più verde, cioè chi abita nella città più grande ha più libertà di movimento, ma la verità è che la gran parte, più dei 2/3 degli italiani, abitano in medi e piccoli comuni e di conseguenza se si dovesse lasciare libera circolazione tra i comuni vuol dire che la gran parte degli italiani potrebbero spostarsi, così come quelli che vivono nelle grandi città ma che hanno i parenti fuori e sono non tanti ma tantissimi, sì, farebbero la stessa cosa, cioè la ratio della norma è quella di ridurre il più possibile gli spostamenti. Stiamo già allentando adesso per gli acquisti natalizi, se allentiamo per gli acquisti natalizi e anche per le festività facciamo la cosa più pericolosa. Però gli stavo per chiedere, perché c'è questo problema di chi vive nei piccoli comuni, e però pare che il governo alla fine ceda, almeno i giornali sono pieni di queste indiscrezioni secondo le quali Conte, anche per allentare un po' di tensioni politiche che complessivamente ci sono, sarebbe pronto a cambiare idea. Su questo però c'è una certa tensione all'interno della maggioranza. Il ministro Speranza, per esempio, vuole mantenere le norme rigide. Poi io ho molto rispetto per il dibattito parlamentare, da qui a Natale ci sono 2 settimane, ci sarà sicuramente ancora un pezzo di discussione, però per me le norme che sono state approvate dal governo sono giuste e anzi personalmente mi interrogo ancora sull'idea di immaginare anche ancora come possiamo, diciamo, limitare gli spostamenti. E quindi vorrebbe addirittura norme ancora più rigide, Speranza, che sempre a porta a porta dice che bisogna sfruttare il Natale per ridurre i contagi. So che non è una posizione che può far riscuotere particolare consenso, ma durante queste vacanze di Natale, quando tante persone smetteranno di lavorare, è l'occasione buona per ridurre ancora di più i contatti, per stare a casa, per evitare spostamenti che non sono indispensabili, per evitare occasioni in cui il contagio può ancora diffondersi, perché siamo vicini alla meta, manca davvero poco e sarebbe un peccato incredibile sprecare il lavoro fatto nelle ultime settimane, dove oggettivamente la curva ha iniziato a piegarsi, e ripiombare proprio tra gennaio e febbraio, quando partiranno le vaccinazioni, in una nuova fase di recrudescenza. Così dunque Speranza. E Guido Rasi, che è l'ex presidente dell'autorità dell'agenzia per i medicinali europea, cosa dice? Dice: guardate l'esempio degli Stati Uniti. Basta guardare i numeri degli Stati Uniti. 15 giorni fa il Thanksgiving, ieri 2900 morti. Ed eccolo qua, eccolo qua. Allora, questo il fronte di quello che succederà, no? Di quello che succederà presumibilmente sotto Natale. Vi aspetto intanto, se volete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, WhatsApp audio, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Anche di commento a questo, anche di commento ovviamente alla situazione politica. Situazione politica che resta piuttosto tesa, anche a guardare le interviste sui giornali di oggi e anche le interviste degli esponenti del Partito Democratico, perché qua l'attenzione si sta concentrando molto su Renzi. E però in realtà la battaglia di Renzi contro questa task force per l'attuazione del recovery fund e la battaglia che sta facendo di fatto in parte anche contro il Presidente del Consiglio è una battaglia che potrebbe essere portata avanti anche da un pezzo del Partito Democratico e anche da un pezzo del Movimento 5 Stelle. Sono giochi di palazzo, tutto quello che volete, per carità, e non parlarne è quasi fastidioso in una fase così delicata, con altri 800 morti come ci sono stati ieri. E però è la sostanza che potrebbe portare o al voto o a un cambio di esecutivo, come dice oggi lo stesso Renzi in un'intervista. Dunque, la questione del recovery fund. Dice Renzi ieri ospite a Stasera Italia, dice che non capisce bene chi ha deciso certe cose. Sentiamolo. Mi dite chi ha deciso che alla sanità vanno 9 miliardi? Perché per me 9 miliardi sono pochi su 200 miliardi. Allora, ci sono 900 morti ancora oggi, ci sono 237 medici morti, ci sono 24.000 ragazzi che hanno fatto medicina, che sono laureati, che non riescono ad andare a fare la specializzazione. Possiamo mettere i soldi sulla sanità? E qua incalzato anche con una domanda di un autorevole ospite ieri di Stasera Italia, Sebastiano Barisoni, ancora Renzi. Allora io dico, prima decidiamo che cosa fare. Decidiamo di investire sul digitale, sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione e poi a quel punto decidiamo che cosa serve. Cioè, chiunque a casa sa che se deve fare un progetto, prima decide il progetto, poi decide di chiamare il falegname e il Conte, con chi l'ha fatto sto piano secondo lei? Questa è una domanda fantastica, io non l'ho capito. Insomma, dice Renzi, non l'ha fatto con noi, se l'è fatto presumibilmente da solo, eh? Ancora sul recovery fund, la questione politica, ovviamente la Lega su questo fronte incalza, no? Sentiamo Molinari. Le critiche che fa Renzi sono assolutamente giuste, fondate. Quello che mi lascia perplesso è che però questo è l'ennesimo ultimatum di Renzi da quando è iniziata questa esperienza di governo. Adesso giustamente minaccia la crisi di governo, ha perfettamente ragione, non so se è semplicemente l'ennesima scusa per ottenere qualche poltrona, qualche posizione, quanto in realtà sia invece una crisi possibile per questo governo. Se non ora, quando? Così dunque Molinari della Lega. Il commissario agli affari economici e monetari, Gentiloni. Credo che tutti siano consapevoli dell'importanza di questa partita europea e della necessità che l'Italia, come gli altri paesi, converga su priorità e modalità di attuazione. Non ci sono al momento scadenze, c'è solo la necessità di concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi, perché sappiamo che poi, una volta stabiliti gli obiettivi, bisogna anche avere la capacità di rispettare i tempi e di rispettare le scadenze concordate. E dunque questo è il fronte. Ieri si è parlato anche molto di scuola. Ieri a Piazza Pulita mi ha colpito molto questo servizio realizzato in una periferia milanese da parte dell'inviata di Porta a Porta di Piazza Pulita, la quale raccoglie un po' di testimonianze su come stanno andando la didattica a distanza, in questi casi, in questo caso presunta tale. Vengo solitamente qua a giocare ascoltando le lezioni. Cioè tu giochi a basket e intanto ascolti le lezioni? A dire la verità mi sono svegliato tardi, quindi non potevo nemmeno entrare perché era già scaduta la seconda ora, non si poteva più entrare. Quando ti colleghi riesci a star fissa a seguire? No, gioco alla play, faccio un po' qualche volta dei fatti miei. Riesci a giocare alla play mentre sei collegato? Ascolto con le cuffie. E ancora un altro, e secondo me questo secondo passaggio vi dà perfettamente la misura di quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Allora, quando insistiamo sul tema dicendo che la didattica a distanza non basta, mi è capitato di insistere da questi microfoni, a volte beccandomi gli strali dei professori arrabbiati che dicono: ah, ma voi non capite niente, sta funzionando, sta andando bene, eccetera eccetera. Quello a cui pensiamo sono soprattutto le persone con difficoltà. Ieri vi abbiamo dato conto dei dati dell'Istat, in rassegna stampa, che sono stati forniti su come è andato l'anno scolastico 2019-2020 per gli studenti con disabilità. Ebbene, il 25% a livello nazionale, il 29% nel mezzogiorno non è riuscito a fare didattica a distanza, e quindi un mondo fragile che per un terzo è stato di fatto escluso dalla scuola. E un mondo fragile, quello delle famiglie in difficoltà, delle famiglie con pochi soldi, che è escluso per altri motivi. Sentite qua. Tu stamattina riesci a farla? No, su telefono scarico. E l'ho detto, non ho la batteria, così. Ma scusami, a casa riesci a usare il computer? Non ce l'ho il computer a casa. Ma la connessione a casa? Certe volte si stacca. È il modem che è rotto. Ma casa è grande? No, è piccola. C'è una stanza, un bagno, la sala e la cucina. Io dormo nel salotto. Sono i miei fratelli più piccoli che stanno in camera con i miei. Le lezioni le hai seguite? Sei riuscito a seguirle a distanza? No. Ah, perché non capisco niente. Invece se fosse stata la scuola aperta avrei capito di più. Ma ci sono tanti tuoi compagni di classe che fanno così, che non si collegano più? La maggior parte sì. E certo, poi sì, c'è la questione dei contagi, dice così il Crisanti, sempre a Piazza Pulita. Voglio dire che la scuola, sulla base delle misure adottate, è un luogo sicuro, non è dimostrato, anche perché parliamo di una comunità che si ammala poco, ma che specialmente i giovani invece trasmettono. Quindi abbiamo un punto d'osservazione falsato, basato solo sulla sintomatologia. Noi avremmo dovuto fare campionamenti su diverse scuole, diverse classi. E così Agostino Miozzo, invece coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Quello che noi verifichiamo è che il tasso di contagio all'interno della scuola è analogo o comunque non è superiore. Il problema complesso, che è difficile definire, se un giovane si contagia all'interno della scuola o nei momenti pre e post scolastici. Traffico. Quattro mattino. Buongiorno a Ferdinando Giuliano, editorialista di Bloomberg e della Repubblica. Buongiorno Ferdinando, eccoci qua. Buongiorno a voi tutti. Allora, poi tra l'altro una cosa che non abbiamo, alla quale non abbiamo accennato nella prima parte della trasmissione, il fatto, ma adesso vediamo se avremo margini per toccare il tema, caro Ferdinando, è che la giornata ieri ha anche segnato il ritorno dello Stato nell'acciaio, l'ingresso dello Stato nell'Ilva. E però ti vorrei portare soprattutto sulla questione Recovery Fund e sulle tensioni politiche che stanno attraversando il governo Conte in questo momento. Tensioni politiche sono ulteriormente testimoniate, lo dicevo agli ascoltatori prima, da un po' di interviste che leggiamo oggi, che arrivano anche dalle parti del Partito Democratico, e quindi non è più solamente Renzi brutto e cattivo che ce l'ha con Conte, ma insomma la sensazione è che ci sia qualcosa di più dietro. So che è difficile lanciarsi in previsioni in questa situazione, perché Conte ha dimostrato più resistenza di quanto non immaginassimo, Ferdinando, ma la tua impressione è che regga, reggerà? Io noto un paradosso. Per un anno ci siamo lamentati, diciamo, in Italia sui problemi dell'Europa, su come l'Europa non si mettesse d'accordo per emettere debito comune, non desse sussidi ai paesi che erano stati colpiti dalla pandemia, e ora abbiamo la realizzazione plastica che il problema non era l'Europa. L'Europa ha fatto questo accordo storico che è stato siglato ieri, 750 miliardi nel Next Generation EU Fund, l'Italia dovrebbe beneficiare per oltre 200 miliardi, e la maggioranza di governo, che dovrebbe avere appunto il ruolo, l'onore e l'onere di spendere questi soldi, uno, non riesce ad organizzare un piano veramente concreto e diciamo dettagliato su come farlo, ma potrebbe addirittura cadere su questo diciamo, su questo enorme quantità di denaro che dovrebbe arrivare. Sì. Quindi io ora non ho idea di poi sì, di come finirà, il punto di caduta politico, perché sì, purtroppo in Italia in questo periodo si fanno grandi, abbiamo visto anche sul MES, no? Il Movimento 5 Stelle sembrava che dovesse fare fuoco e fiamme, e poi alla fine si è risolto tutto un po' a terra, luce e vino. Quindi non lo so. Però io noto questo grande contrasto tra quello che era stato detto solo qualche mese fa e quello che poi è avvenuto realmente. Sì. Posto, Ferdinando, che sono state fatte, che l'accordo è arrivato ovviamente sul Recovery Fund, sul Next Generation EU, con corpose concessioni a Polonia e Ungheria, forse inevitabili se vogliamo. Ma io su questo sono un po' meno, diciamo, drastico. Le concessioni ci sono state sicuramente, però alla fine il meccanismo è rimasto, ed è un meccanismo secondo me di portata storica, perché fondamentalmente dice che se vuoi avere degli aiuti dall'Europa devi rispettare dei principi democratici di base, che non trovo un principio sbagliato. Chiaramente l'interpretazione e l'utilizzo di questo meccanismo sarà importante, perché uno non vuole eccedere con l'intrusività dell'Unione Europea all'interno delle politiche nazionali. Però il meccanismo rimane e di fatto secondo me questa è una vittoria per soprattutto per Angela Merkel, che ha di nuovo dimostrato che quando c'è al repentaglio la sopravvivenza e l'unità dell'Unione Europea, lei è pronta a scendere in campo in prima persona per risolvere i dissidi. E questa secondo me è la grande differenza in qualche maniera con Brexit. Lì sono un po' più preoccupato, perché lì ormai non c'è più l'Unione Europea. Il discorso non riguarda più soltanto l'Unione Europea, ma riguarda i rapporti con un paese terzo. Sì. Quanto sarà disposto a scendere a compromesso in quel caso è una questione diversa. Sì. Con gli inglesi, i britannici in una situazione forse adesso un po' più difficile, Ferdinando, visto come sono cambiate le cose dall'altra parte dell'oceano, cioè prima di fatto avevi un presidente che aveva tutto l'interesse a spaccare l'Unione Europea e tutto l'interesse quindi a portare, per così dire, la Gran Bretagna dalla sua parte, promettendo straordinari accordi bilaterali, e adesso invece ti trovi un presidente che non è più esattamente così, quindi più complessa forse questo no deal che si prospetta, ormai mi sembra più complesso, che dici? Secondo me anche sotto Trump i problemi erano grossi con il no deal, prima di tutto perché comunque dal punto di vista economico purtroppo c'è poco da fare, ma l'Unione Europea resta il primo partner commerciale della Gran Bretagna, quindi dal punto di vista economico la questione continuava a essere enorme. Secondo punto era perché anche Trump è stato un presidente molto, diciamo, ondivago da tanti punti di vista, quindi è vero che dal punto di vista retorico si parlava molto del mettere diciamo, la Gran Bretagna magari davanti rispetto a qualsiasi altro paese per fare degli accordi commerciali, ma poi dal punto di vista pratico sappiamo benissimo che Trump era un presidente protezionista, e quindi anche questi, diciamo, accordi commerciali con il Regno Unito non sarebbero stati poi così tanto vantaggiosi per Londra. Ora chiaramente anche dal punto di vista politico l'isolamento è maggiore, ma credo che il punto sì. principale resti quello economico. Davvero il Regno Unito vuole andare a infilarsi in una rottura delle relazioni commerciali con i conseguenti problemi di natura logistica e pratica che questo comporterebbe quando si sta lentamente, ma non ancora, venendo fuori da una pandemia e da uno shock economico di una portata così grossa? È un rischio molto molto elevato per Johnson, e d'altra parte continua a esserci, come si può dire, questa incapacità di capire che in questo momento la Gran Bretagna sta chiedendo all'Unione Europea di andare a smontare le regole fondamentali diciamo delle sue politiche commerciali, e questo è inaccettabile per la sopravvivenza dell'Unione Europea nel lungo periodo. Quindi molte delle richieste inglesi per la fine sono davvero difficili da accettare, se non impossibili. Senti, a chiudere su questa storia della task force, o meglio dell'unità di missione, chiamiamola come vogliamo, del gruppo di lavoro per l'attuazione del recovery fund, guarda, io sono abbastanza colpito, perché lunedì ho avuto ospite il ministro Provenzano, oggi vedo il ministro Amendola intervistato al Sole 24 Ore dire la stessa cosa, che ce lo chiede l'Europa. Ora stamattina, dato che ognuno poi passa il tempo come crede, alle 4:15 mentre bevevo il caffè sono andato a vedermi cosa dice l'Unione Europea in quelle 50 pagine nelle quali dice agli paesi che cosa dovete fare quando strutturate, no, il piano per il recovery, e non parla assolutamente della necessità di una task force. Dice dovete prendere un coordinatore il quale abbia sotto una squadra tecnica che gestisca questa cosa. È curiosa questa vicenda della task force, devo dire, eh? È divertente perché in Italia ci lamentiamo della condizionalità degli aiuti e poi cerchiamo condizionalità che non ci sono ogni tanto per mettere, come si può dire, in pace le sobillazioni del governo. La grande condizionalità è che i soldi vengano usati bene per fare degli investimenti in una serie di aree che sono ritenute importanti da parte dell'Unione. Ora, come verrà applicata quella condizionalità non lo so, non sono sicuro, e credo che sia uno dei grandi problemi della struttura di questo Next Generation Fund, però onestamente io penso che sia arrivato il momento in cui la politica deve finalmente assumersi le sue responsabilità. Questa è una grandissima occasione, se il governo è in grado di gestire questi soldi bene lo faccia, se non è in grado di farlo ci sono alternative, anche le elezioni. Cioè, io credo che a questo punto questo paese debba avere delle risposte. Se sì. è in grado di darlo questo governo, bene, però lo faccia qualcun altro, onestamente. Grazie Ferdinando Giuliano, editorialista di Bloomberg e del quotidiano La Repubblica. Buona giornata Ferdinando, e grazie. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.